Se potessi, amore mio, vorrei darti tutto quel che vedo, ma posso darti solo quel che ho io. E purtroppo non è gran cosa. Se potessi, amore mio, vorrei essere un gran uomo, saperti amare come una regina, ma purtroppo sono quel che sono. Se potessi, amore mio, per non sciupare questa tua vita, dovrei andarmene e dirti addio, ma purtroppo non sono buono.